Gli ascoltatori ricorderanno senz'altro la scena del cantastorie nel Galileo di Brecht, quella in cui, tanto per far capire i motivi per cui l'alto clero era così ansioso di bloccare la divulgazione di certe scoperte astronomiche, si spiegava come le innovazioni scientifiche e tecnologiche comportino di necessità una trasformazione delle coscienze e in ultima analisi possano mettere in crisi gli apparati ideologici grazie a cui chi detiene il potere cerca di continuare a detenerlo. È una bella e confortante teoria del progresso di origine marxista e, come tutte le teorie del progresso di qualsiasi origine, non è passata indenne alla prova degli anni. Diciamo che per continuare a crederci bisogna rassegnarsi a mettere nel conto un bel po' di apparenti eccezioni, sperando che siano davvero apparenti, e qualche mediazione abbastanza complicata. Che le innovazioni tecnologiche d'altronde possano essere utilizzate a fini tutt'altro che di progresso è esperienza di tutti i giorni, e non occorre tirare sempre in ballo l'esempio della bomba atomica. Basta leggere, io l'ho letto sul manifesto dell'8 marzo scorso, ma non è solo un esempio, basta leggere dell'uso che una rete televisiva statunitense è riuscita a fare delle più recenti tecnologie informatiche. Un attentissimo giornalista del New York Daily News, assistendo alla trasmissione su un canale della rete ABC di un vecchio film con James Bond, Agente 007 Una cascata di diamanti, Diamonds Are Forever, è del 71, si è accorto che c'era qualcosa che non quadrava. Una delle Bond Girl, una delle ragazze comprimarie, quella interpretata da Lana Wood, la sorella della ben più celebre Nathalie, e lui in una certa scena se la ricordava nuda. Adesso, com'era e come non era, sul piccolo schermo sfoggiava un paio di impeccabili slip e reggiseno in tinta. E gli sono bastate al giornalista un paio di telefonate per scoprire che sì, quella di rielaborare i film al computer per celare nudità imbarazzanti o disdicevoli è ormai pratica consolidata di tutti i network televisivi. Direte voi, niente di nuovo sotto il sole. Ben prima dell'era degli elaboratori elettronici succedeva che opere d'arte anche eminenti, e senz'altro più eminenti di Agente 007 Una cascata di diamanti, subissero analoghi interventi di correzione. Mutande e foglie di fico sono state ridipinte con una certa liberalità su figure che pure erano uscite dal pennello di un Masaccio o di un Michelangelo. Gli stessi affreschi della Cappella Sistina, come noto, testimoniano largamente dell'opera, oltre che del Buonarroti, di quel suo più tardo continuatore che i posteri avrebbero chiamato non a caso il Braghettone. E chissà quanti altri onesti artigiani del pennello si sono guadagnati il pane ritoccando delle maddalene un po' troppo peccaminose o dei San Sebastiani vagamente esibizionisti. L'arte è l'arte, si sa, ma la committenza ha sempre avuto le sue esigenze. Anche gli artisti d'altronde hanno le loro. Sanno che nel paradiso terrestre si era soliti andare in giro nudi, se no che paradiso sarebbe, e sanno che altrettanto nudi per tradizione si presentano i dannati al giudizio universale e non vi si può ritrarre tutti di schiena o dalla cintola in su. Come, se recito il parallelo, il regista e sceneggiatore di Agente 007 Una cascata di diamanti avevano i loro buoni motivi per volere che Lana Wood in quella famosa scena facesse a meno della biancheria intima. E in fondo il personaggio, che era quello di tale Plenty O'Toole, Petty nell'edizione italiana, è quello di una disinvolta fanciulla usa a battere i casinò di Las Vegas in cerca di signori galanarosi, e che, dopo aver agganciato Sean Connery al tavolo da gioco, gli si infila in camera da letto a scopo seduzione, e ammetterete anche voi che in quelle circostanze la lingerie può essere abbastanza superflua. Tra l'altro la poveretta, invece che del fascinoso agente segreto, si imbatteva in certi gangster che gli avrebbero fatto fare un bel volo fuori dalla finestra, per fortuna che sarebbe caduta in piscina, ma questo naturalmente non c'entra. La situazione è un po' osè, ma così si usava nei primi anni 70, e se si vuole continuare a fruire sia pure per la televisione di un prodotto di quegli anni, sarebbe opportuno rassegnarsi a rispettarne le caratteristiche, convenzioni sul nudo comprese, e chi preferisce non esibire sulla propria rete scene di quel tipo non ha altro da fare che proporre un altro film. L'intervento, sia pure computerizzato, è altrettanto illegittimo di quelli consumati ai danni di Masaccio e di Michelangelo, e pur tenendo il debito conto del diverso livello a cui ci si muove, dovrebbe essere altrettanto deplorato. e visto che non ci ho ancora pensato nessuno, mi permetterò in tutta modestia di farlo io. Perché il problema, naturalmente, non è quello del nudo e del vestito, nel senso che non intendo certo sostenere che un film in cui le attrici si presentano senza slip e reggiseno sia ideologicamente più avanzato di un altro in cui questi capi di abbigliamento siano regolarmente impiegati. Il problema è quello del rispetto del lavoro e delle convenzioni altrui, che non vanno prevaricate in nome di criteri e valori che pur rispettabilissimo in sé non tutti sono tenuti a condividere. In questo senso, usare un computer per rielaborare surrettiziamente del materiale ideologicamente orientato in altro senso è un buon esempio di come ci si possa servire del progresso tecnologico a scopi puramente regressivi. Per non dire naturalmente che per difendere la virtù dei telespettatori ci vorrebbe ben altro che un paio di slip virtuali, ma questo discorso, ahimè, ci porterebbe troppo lontano.